9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 12 di ottobre, buon San Serafino, chi si chiama in questo nome, la scoperta dell'America, oggi è l'anniversario, ma detto questo noi ci troviamo con il problema che è quasi noioso nella sua ovvietà e che però vale la pena di essere comunque posto alla vostra attenzione, soprattutto per chiedervi di chiamare, sapete, il numero verde 800 24 00 24, mentre gli sms 349 238 6666, per dirci rapidamente come la pensate dopo lo sviluppo di ieri politico. Ma è successo qualche cosa che valga davvero la pena di essere considerato grave, come in realtà in un paese normale bisognerebbe immaginare, visto che se un governo va sotto addirittura sull'assestamento del bilancio non c'è più politicamente? Oppure dobbiamo abituarci anche al fatto che i signori politici ci raccontano, dopo averci detto che non era vero che eravamo nella crisi, che non era vero che siamo i primi euro emittenti e quindi era ovvio che diventassimo il banco di prova della tenuta dell'euro, che non è vero che il mercato ci ha chiesto un abbattimento dello stock di debito pubblico, concessioni patrimoniali, che non è vero che ci ha chiesto una diminuzione strutturale della spesa pubblica ben superiore ai 7 miliardi di euro ancora da attribuire tra ministeri, del tipo con l'azzeramento della pensione di anzianità. Dopo che ci hanno detto che non era vero niente di tutto questo, bisogna anche accontentarsi del fatto che ci dicono che non è affatto vero che poi sia una cosa di natale gravità che sia battuto il governo sull'assestamento di bilancio, ma insomma è una disattenzione, non è una cosa politica. Ecco, questa è la domanda di oggi, soprattutto alla luce del fatto che a furia di abituarsi a cose sempre più vere che vengono spacciate per non vere, è ovvio che il tutto diventa kafkiano, diventa surreale, diventa sempre più difficile immaginare cosa sia un paese serio, come si comporterebbe una classe politica all'altezza delle sue responsabilità. Vedete, porre queste domande da un po' di tempo pone, crea delle reazioni, perché molto del nostro ascoltatorato, per così dire, si divide in due, tra coloro che dicono «eh beh, si svegli adesso, ma come, per anni li hai difesi». E questi sono una buona significativa parte. Poi ce n'è un'altra che dicono, vabbè, adesso, al momento del bisogno, tradisci? Ma noi qua moduliamo conduttori in conduttori, trasmissione per trasmissione, i nostri punti di vista in piena libertà. E io ringrazio chi gestisce questi microfoni e questa radio di potercelo consentire. È da parecchio tempo che il sottoscritto pone queste domande, non proprio dall'altro ieri, e non c'è nessun mandato da tradire. La questione, ripeto, è quella di assistere a braccia conserte a una lunga, resistibile, secondo me molto resistibile, cioè il dovere di resistere, per così dire, traiettoria al ribasso della credibilità di questo paese. Ora noi viviamo da 2 o 3 settimane con la certezza che i mercati stanno andando un po' meglio, perché c'è stato l'annuncio del fondo salva stati, che però è ben lungi dall'essere davvero con dotazioni adeguate e con un consenso condiviso tra Francia e Germania. E nell'ultima settimana abbiamo brindato al calice al fatto che la cintura più esposta alla crisi dell'euro debito, cioè quella delle banche, vede la decisione dei tedeschi e dei francesi di intervenire, ma ancora una volta ciascuno a casa sua sulle proprie e non con un meccanismo di convergenza condiviso. In queste condizioni siamo così sicuri che bisogna essere ottimisti e che dobbiamo incorporarci questi 400 dannati punti base di spread come fosse ordinaria amministrazione, che vengono traslati alle banche, alle famiglie, nei mutui, e pensare che per tutto il resto si può andare avanti così per un pugno di voti che forse si distraggono in Parlamento ogni tanto? Oppure invece non è una distrazione casuale, perché gli amici di Scajola e Scajola che non hanno votato ieri, Tramonti che c'era ma si era distratto, Scilipoti e i suoi, significa semplicemente che è vero ciò che i giornali scrivono ogni giorno, cioè che all'interno del PDL vi sono 1, 2, 3 linee di uscita divergenti da questa situazione politica, che Berlusconi che resiste, ma oramai in tanti dicono senti, non regge più e bisogna che mettiamo mani a un meccanismo di uscita controllata o comunque di chi si salve chi può. Ecco, io propendo per questa seconda ipotesi, ma sono curioso di sentire come la pensano i nostri ospiti. Aggiungo, c'è una parte di parlamentari del centrodestra che dovrebbe porsi un'altra domanda probabilmente, e cioè non tanto quella di assistere ai cattolici che vanno dietro una sirena, come sono quelli di Scajola, i suoi, non tanto quello di far muro in nome solo della fedeltà, ma c'è un piccolo problema di rappresentanza di un'area politica che non è detto affatto che perda il diritto e il titolo a rappresentare una bella fetta di italiani e perda il diritto e il titolo anche a battersi per impedire che Berlusconi vada in galera, per essere chiari, e perda il suo gruppo, ma che per farlo dovrebbe immaginare di recuperare un po' di credibilità. È così impolitico pensare questo? È così fuori dalla grazia di Dio pensarlo? Non lo so. Io faccio appello a una parte dei parlamentari del centrodestra, se si rendono conto di che aria tira nel paese, se si rendono conto del fatto che comunque c'è una parte degli italiani che a me continua a stupire nei sondaggi per quanto è elevata, a dirvi la verità, e non per quanto sia bassa, che chiede di tornare allo spirito del 1994, meno Stato, meno tasse, Stato più leggero, semplificazioni veri, eccetera eccetera. Ecco, a quella parte lì, le vie di fuga del centrodestra che si vedono oggi, nessuno sta dando una risposta. Mi incuriosisce capire se c'è una parte di PDL capace poi di fare che cosa? Di spiegare a Berlusconi che bisogna organizzargli una via di uscita e che bisogna battersi però con qualche cosa di diverso da ciò che possa sembrare semplicemente una grande legione di camerieri, perché di questo si tratta. La politica non fa festa ai camerieri se non appena si è vinto, ma quando si avvicinano aree diverse ci siamo capiti. Serve gente che abbia una propria credibilità da mettere in faccia agli elettori. Allora sentiamo come la pensano i nostri ospiti. Qui ci sono due filoni: se l'Italia resta nel focus della crisi dell'eurodebito, la mia risposta è sì, ma sono curioso di sapere da loro. E il secondo è prendere sul serio la cosa di ieri: cosa vuol dire, quanto tempo c'ha l'orologio del governo e di questa maggioranza e con che via d'uscita? I primi due ospiti a cui chiediamo queste cose sono Alessandro Barbera, giornalista, collega della Stampa. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. E il direttore del Panorama, Giorgio Mulè. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Allora Barbera, siamo e restiamo nella crisi. A, B, che impressione hai come osservatore della maggioranza e del governo per la cosa di ieri? Che vuol dire, che significa, dove ci porta? Siamo dentro la crisi, ci siamo in pieno. Siamo ancora sotto metadone, la BCE non ha ancora smesso di comprare titoli pubblici sul mercato secondario. Ieri Jean-Claude Trichet ha detto chiaramente che siamo vicini ad un momento importantissimo, quindi evidentemente a Francoforte hanno la sensazione che, come dire, la bufera del mese scorso, delle ultime settimane, non è affatto passata e dunque dobbiamo aspettarci un peggioramento della situazione in qualunque momento. Per poter affrontare, come dire, il mare in tempesta in un momento di relativa tranquillità, ci vorrebbe un governo che fosse capace di, come dire, guidare il timone della nave Italia con forza, con determinazione. Abbiamo un governo che è ormai l'ombra di se stesso. Quello che è successo ieri secondo me non è grave, è gravissimo, è incredibile che il ministro dell'economia, lo dico con molta chiarezza, non abbia votato l'assestamento, come se l'amministratore delegato di un'azienda non avesse votato il bilancio consuntivo della sua azienda che ha guidato nell'ultimo anno. Quello che è successo ieri è incredibile, la leggerezza, se è stata una leggerezza, con la quale la maggioranza non è riuscita a votare l'assestamento, e se non fosse una leggerezza è incredibile come questo governo non riesca ad aprire la crisi secondo modalità tradizionali e trasparenti, ma debba farlo attraverso questi giochetti di potere. Secondo te perché questo governo non riesce ad aprire una crisi con modalità trasparenti? Non riesco a spiegarmelo, se non dovendo rispondermi che ci sono alcuni inconfessabili motivi che spingono Bossi, Tremonti, Scajola a chiedere a Berlusconi di farsi da parte, evidentemente di non riuscire a ottenerlo in maniera pubblica. Berlusconi evidentemente non vuole prendere atto del fatto che la sua maggioranza non c'è più, è convinto di poter mettere a posto anche questo incidente. Io mi chiedo quanti incidenti dobbiamo mettere a posto prima che, come dire, la nave smetta di funzionare. Posso chiederti un'altra questione che è relativa appunto ai tempi e alle modalità di questa formale imbocco della via della crisi? In realtà noi viviamo una condizione particolare da quando Fini ruppe e si dovette attendere oltre un mese per andare poi a un voto in Parlamento per verificare se il governo Berlusconi aveva la fiducia. Quindi stiamo parlando quasi di un anno fa, 11 mesi fa, perché la cosa avvenne tra ottobre e novembre dell'anno scorso. Da quel momento in avanti spesso il capo dello Stato e il Quirinale, sia pur accrescendo la pressione e la vigilanza su tutti i dossier nei confronti del governo, della maggioranza e del Parlamento, non ha mai fatto capire con il suo comportamento concreto, come avvenne allora, perché quell'attesa di 5 settimane fu necessaria, utile molto alla maggioranza del governo per sopravvivere, e nasceva anche dalla valutazione che dall'altra parte ci fosse caos, divisione, impossibilità di confezionare una soluzione più credibile. Questa faccenda, questo fatto, la divisione e la divergenza dell'opposizione, è un elemento che concorre, secondo te, Alessandro, al fatto che non riusciamo a imboccare formalmente una via di formalizzazione della crisi? Oppure a questo punto è diventata così secondaria che è semplicemente il no di Berlusconi alla presa d'atto che non c'è più la sua maggioranza, a spiegarlo? No, tutte e due. Credo che il fatto che non esista un'alternativa concreta a questo governo è un problema enorme per il Presidente della Repubblica, il quale ovviamente laddove, come dire, è in grado, quando ha lo spazio, quando se lo prende, perché poi non è detto che se lo debba prendere, il suo ruolo costituzionale ha dei paletti che lui giustamente non vuole travalicare, ma se non c'è una maggioranza alternativa, se non c'è una maggioranza capace di formare un governo diverso in tempi brevi, è indubbio che il governo si regge in piedi per inazione. Non dimentichiamo che non siamo più ai tempi della Prima Repubblica, quando un governo si poteva permettere di rimanere per gli affari correnti per settimane, se non addirittura per mesi, che poteva permettersi di formare governi balneari. Oggi questo momento in particolare, ma i tempi del mercato sono diventati talmente rapidi che un governo o c'è nella sua pienezza dei poteri in tempi rapidissimi, oppure è un enorme problema per il paese. Ovviamente tutti dicono ma no, ma non è così, il Belgio è riuscito a stare senza governo per 1 anno e mezzo, ma il Belgio non è l'Italia. È vero che abbiamo spostato parte della nostra sovranità all'Europa e quindi la moneta, che è una delle, come dire, forze fondamentali di uno Stato, ormai sta altrove, però resta il fatto che noi siamo un grande paese dell'Eurozona, siamo il più esposto e non possiamo permetterci di rimanere senza governo. Quindi certamente sì, il fatto che non esista una maggioranza alternativa, il fatto che il PD finora, più che costruire, cercare di costruire un'alternativa, abbia semplicemente aspettato di poter di vedere lo sgambetto prodursi, come dire, tifando per chi voleva sgambettarli, certamente questo era uno degli elementi che concorre al fatto che il governo sia ancora in piedi. È maledizione, chi parla è convinto che proprio per via del vortice in cui l'Italia, proprio per questo c'era la strepitosa occasione, malgrado tutte le botte prese, le cattive figure, la perdita di credibilità personale e di stile di Berlusconi, che proprio in questo vortice c'era la strepitosa occasione per Berlusconi, per il centrodestra, per una maggioranza capace di capire perché gli italiani, una volta sì una volta no, li hanno rimessi lì a fare che, la strepitosa occasione di approfittare del commissariamento della BCE per dire sì, noi azzeriamo le pensioni di anzianità, sì, noi facciamo 10-12 punti di PIL di privatizzazioni, sì è vero, noi facciamo le liberalizzazioni che abbiamo fatto fino a questo momento, sì è vero, adesso è il momento di fare crescere il paese con minore spesa pubblica a botte di 4-5 punti di PIL e minor pressione fiscale subito, e tanto per cominciare da subito retrocediamo tutto quello che San Attilio Befera, il persecutore dell'evasione, porta a casa, e lo retrocediamo immediatamente ai contribuenti fedeli e leali dello Stato, che subito hanno diritto a incassare ciò che si fa con la lotta all'evasione. Io penso che questa era l'occasione d'oro per tentare di staccare la spina dalle escort, dalle intercettazioni, dalla lotta terribile che in realtà ha tagliato sotto i piedi l'erba a Berlusconi, perché lo ha colpito laddove nessun'altra indagine lo aveva finora colpito, la credibilità personale. Il fatto che fosse apparso veritiero quando diceva sì è vero, tutto sommato faccio il premier a tempo perso visto che mi devo occupare d'altro. Allora, questo non c'è stato fino a questo momento. Nel centrodestra, secondo il direttore di Panorama, un atteggiamento di questo tipo è una immaginabile via di uscita da questa crisi ancora oggi? Oppure no, è troppo compromesso, perché ha ragione Alessandro Barbera, dice tanto qua non si riesce a fare dire a Berlusconi che la maggioranza non c'è più e nel frattempo anche la Lega perde ogni credibilità, perché gli episodi di Varese non sono episodi, l'episodio della mordacchia messa al sindaco di Verona non è un episodio. Che cosa succede per cui nel centrodestra sembra veramente così smarrito un filo diretto con il proprio elettorato che per tanti anni ha funzionato comunque bene, perché alla fine la sinistra, convinta che Berlusconi era morto ogni volta, se lo deve risorgere ogni volta più forte di prima? Ma succede che, come in tutti i momenti di transizione, bisogna che qualcuno abbia la forza di imporsi su chi governa. Se cioè vi fosse una forza all'interno del centrodestra uguale alternativa a Berlusconi, l'avremmo già vista all'orizzonte, dico che dal 14 dicembre del 2010, cioè da quando Fini ha mollato le cime e è andato per i fatti suoi, il governo ha incassato qualche decina di voti di fiducia. Vuol dire che ogni volta che sono stati chiamati al rapporto hanno tutti alzato la mano e si sono tutti allineati a una politica che si riconosce ed è, come dire, Silvio Berlusconi al netto di tutto quello che notavi anche tu. Vuol dire che all'interno della Lega c'è un problema esattamente uguale sovrapponibile, cioè nessuno ha la forza in questo momento di sovrapporsi e di sostituire Umberto Bossi. Come dicono a Roma, le chiacchiere stanno a zero, nel senso se non c'è il disegno alternativo e non c'è non solo all'interno del centrodestra, ma non c'è neanche nel centrosinistra, perché quando si cita giustamente la lettera della BCE e delle prescrizioni della BCE, avrei voluto sentire qualche voce, come dire, sonante, tonante dalle parti del PD e del centrosinistra che sposasse in toto le misure richieste, a cominciare dall'intervento ineludibile, a mio giudizio, per la crescita di questo paese o per la salvezza di questo paese sulle pensioni anzianità di vecchiaia. Invece abbiamo assistito anche lì al solito balletto: prima si invoca l'Europa, quando si sente la voce dell'Europa allora l'Europa non va più bene. Allora è una media degli equivoci che si trascina oramai da troppo tempo e che si poggia su varie debolezze: la debolezza di leadership che è del centrodestra, che è del centrosinistra, ma che è una debolezza di leadership che è europea, perché quello che è ancora successo ieri e di cui stamattina stiamo vedendo gli effetti nelle borse con il voto della Slovacchia, sottolineo, Slovacchia, che blocca il fondo salva stati europeo, comunque ne determina un clamoroso decelamento, ha degli effetti immediati sulle borse di tutto il continente, probabilmente mondiali. La grande Europa di Merkel e Sarkozy è l'Europa che si inchina al piccolo paese della Slovacchia? Cioè, che razza di leadership ha costruito l'Europa? Che razza di credibilità a un'Europa che invece è vittima non di veti enormi nazionali, ma vittima del veto della Slovacchia? Ripeto, ribadisco che dovrebbe farci pensare a tutti quando ci riempiamo la bocca sulla credibilità dell'Europa e sulla capacità europea di incidere su un processo di crisi che non solo non è finito, ma di cui cominciamo a vedere soltanto adesso gli effetti, perché ancora anche in questo caso si ha un bel parlare delle borse che festeggiano negli ultimi giorni il 15, il 18, titoli che recuperano il 20%. Guardate che titoli sono stati le capitalizzazioni delle banche italiane rispetto a 6 mesi fa. È, nella migliore delle ipotesi, dimezzata. Cioè, ciò che valeva 18 miliardi a marzo vale oggi 9 miliardi ed è un patrimonio che il 5 o 10% che guadagniamo in questi giorni è un soffio d'aria rispetto alla bufera che è arrivata e all'altra che sta per arrivare, che si sta per abbattere, frutto soprattutto delle incertezze che continuiamo a respirare in Europa. Io condivido anche il senso di chiusura delle parole del direttore di Panorama, nel senso che il deprezzamento degli asset incorporato in questi mesi è un allarme forte, è vero, e riguarda tutti, impatta l'intera economia, non è solo una cosa che riguarda l'asse del debito pubblico, e proprio per questo occorrerebbe una resipiscenza, per così dire, una via d'uscita praticabile. Ci ha raggiunto Enrico Letta, il vice segretario del Partito Democratico, anche a lui chiedo quello che ho chiesto a Alessandro Barbera della Stampa, direttore di Panorama: come mai complessivamente, ecco, al di là del fatto che ovviamente l'opposizione non può dire che la colpa è del governo, ieri ci troviamo tutti d'accordo sul fatto che è avvenuta una cosa molto grave, ma l'imbocco di una possibilità di uscita da questa situazione bloccata con Berlusconi che non prende atto dei problemi della sua maggioranza, nella maggioranza tutti poi riallineati ogni volta quando c'è un guaio, alla fine alzano la manina e c'è il voto. Abbiamo considerato anche le divergenze, le divisioni della opposizione come uno dei temi a cui il Quirinale deve per forza guardare da un anno a questa parte, dopo quello che è successo con Fini. Secondo lei, a oggi, la praticabilità di una via d'uscita da questo blocco pericoloso per il paese sempre di più, qual è davvero concretamente, onorevole Letta? Ma intanto buongiorno agli ascoltatori. Il fatto di ieri è un fatto grave, bisogna uscirne. Credo che siano vere molte delle cose che ho ascoltato sul fatto che la crisi è una crisi europea, una crisi globale, che l'Europa manca di leadership, però pensiamo a quello che possiamo fare noi per dare un contributo all'uscita della crisi. Noi possiamo fare alcune cose. La prima cosa è un governo italiano che sia di nuovo in Europa protagonista e ascoltato. La polemica dell'altro giorno del ministro Frattini che se la prende con Sarkozy e Merkel perché l'asse franco-tedesco fa tutto, è una polemica che non tiene conto del fatto che ormai avviene a livello di primi ministri questo tipo di decisioni, e il nostro primo ministro è delegittimato in Italia, lo è ormai a livello europeo in modo lampante, evidente. La mia non è una polemica così faziosa, è un dato di fatto, e non c'è nessun vertice europeo che possa vedere il primo ministro italiano protagonista, e questo è un danno per l'Italia, ma aggiungo anche un danno per l'Europa, perché io condivido il fatto che se lasciamo fare tutto ai francesi e ai tedeschi non è sufficiente. Quindi la prima cosa, un governo italiano che risia protagonista in Europa e sia in grado quindi lì di giocare, di far giocare un ruolo all'Italia e di aiutare l'Europa a risolvere i problemi, tipo appunto problemi di leadership, quello legato alla Slovacchia, all'aumento del fondo salva stati, eccetera. La seconda questione riguarda l'Italia, la voglia di sopravvivenza a tutti i costi di Berlusconi a Palazzo Chigi è un tema che alcuni guardano sempre con l'atteggiamento quasi come se si guardasse una rappresentazione teatrale o scenica, come se questa rappresentazione non avesse a che fare con la vita reale degli italiani, delle imprese italiane, e sembra quasi che questa rappresentazione sia giudicata da taluni, anche da taluni osservatori, con il solito atteggiamento: ma guarda che attributi c'è questo che riesce sempre a reggere, cercano di farlo fuori e lui resiste. Qui il tema non è questo, il tema è il fatto che questa logica di sopravvivenza negli ultimi 3 mesi è una logica che sta costando all'Italia, e voglio argomentare questo tema, non è una parola, non sono parole, sta costando pesantemente all'Italia. Un primo argomento del costo di questa logica di sopravvivenza l'ha tirato fuori ieri la Corte dei Conti. La Corte dei Conti, non so se ne avete parlato prima, la cosa è stata travolta dai fatti poi del pomeriggio, ma la Corte dei Conti ieri ha detto una cosa che è secondo me molto, molto pesante, ha fatto il suo lavoro di ente terzo, tra virgolette, ha detto che il tema sul quale tutti ci arrovelliamo e tutti lo usiamo nei programmi elettorali, nel dire cosa bisognerebbe fare, rispondo alla domanda di Giannino, per uscire dalla crisi, la riforma fiscale, un nuovo fisco, tutti sappiamo che deve spostare il peso da un peso su chi lavora e produce a un peso invece su chi mobilizza la ricchezza per muovere il paese. La Corte dei Conti ieri ci ha detto una cosa che è terribile, ci ha detto: guardate che la riforma fiscale, il progetto di riforma fiscale presentato al governo, il governo se l'è già mangiato, nel senso che le due operazioni dell'aumento dell'IVA fatto alla disperata in queste ultime settimane, e soprattutto un'operazione che è tecnicamente contorta da spiegare, ma è forse la più importante delle questioni, che è nascosta perché è tecnicamente contorta, la manovra ultima che il governo ha fatto di 50 miliardi, 20 di questi 50, quindi i 2/5 di questa manovra, non è una manovra fatta, si sa da dove sono tolti questi soldi, è una bomba a orologeria messa sui prossimi 2 anni, nel senso che questi 20 miliardi dovranno essere presi dalla riforma fiscale, cioè la riforma fiscale che si propone da parte del governo è già a meno 20 miliardi, cioè si dovranno fare 20 miliardi di economie. Se non le si facesse, o perché non si fa la riforma fiscale o perché non la si fa con 20 miliardi di economie, questi 20 miliardi partono con i famigerati tagli lineari che tutti hanno criticato ma vengono riproposti dal governo su un tema delicatissimo, che sono tutte le voci di bilancio che hanno a che fare con l'assistenza, le deduzioni fiscali legati a materie che sono vita concreta delle persone, si va dagli assegni di accompagnamento per la disabilità a tutte le altre voci, sono 400 voci, che sono oggi denari, soldi con i quali parte degli italiani vivono. Allora, questo tema, la sopravvivenza del governo, la si sta pagando pesantemente con fatti come quelli che ho detto. Il secondo fatto è quello degli spread famosi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se gli spagnoli ci hanno superato negli spread e noi abbiamo ormai stabilmente un costo dei nostri titoli di Stato che è il doppio di quello che noi italiani pagavamo fino a luglio, E questo doppio non è lo stesso degli spagnoli, per esempio, cioè ce l'abbiamo solo noi questo raddoppio. Questo raddoppio vuol dire che quando il governo dice, che è l'unica cosa che sta dicendo a sua discolpa oggi, noi stiamo facendo il pareggio di bilancio, non l'ha mai fatto nessuno in Italia, dire che fa il pareggio di bilancio con la mano destra, con la mano sinistra, con una politica di sopravvivenza che fa aumentare i rendimenti dei titoli di Stato, cioè fa crollare la fiducia nel paese, e nel paese Italia, e questa cosa riguarda soprattutto noi più che gli altri, perché lo spread è una differenza con i tedeschi, quindi non è un valore assoluto, fa sì che su quel tema noi paghiamo, aumentiamo il debito pubblico. Quindi mentre si dice noi facciamo il pareggio di bilancio, questa situazione che si protrae in queste settimane ci sta facendo aumentare fisicamente il debito pubblico, e la cosa peggiore è che non lo sta pagando l'Italia di oggi, stiamo facendo pagare all'Italia fra 5 o 10 anni, cioè quando scadranno quei titoli di Stato. Che allora la nostra proposta è molto semplice: in questa situazione noi proponiamo, e lo proponiamo al Capo dello Stato e al Parlamento tutto, un governo di responsabilità nazionale guidato da una grande personalità che sia in grado di stare insieme e accanto a Sarkozy e Merkel con la credibilità necessaria, un governo che sia in grado di fare, io ho detto, le dico i titoli delle cose, l'Europa, quindi rimetterci lì dentro a giocare da protagonisti, cambi la legge elettorale, perché tornare al voto per un'altra volta con la legge elettorale dei nominati vuol dire un Parlamento delegittimato di nuovo, affronti la questione della riforma fiscale, che è assolutamente essenziale, e quindi risistemi queste vicende e sia in grado con una larga maggioranza di toccare due parole, che sono due parole, le uniche due con le quali siamo in grado poi di risistemare le cose. Le due parole sono patrimoni e pensioni. Le pensioni, intervenendo dopo aver tolto le pensioni dei parlamentari, perché sennò un Parlamento che reinterviene sulle pensioni per aumentare l'età pensionabile e quindi liberare risorse per dar lavoro ai giovani, perché questo va fatto senza aver tolto le pensioni dei parlamentari, non è credibile, e valorizzando il patrimonio pubblico e privato che noi abbiamo. Questa è l'unica possibilità. Non c'è questa possibilità, si vada al voto subito. Meglio così, meglio dare la voce agli italiani piuttosto che questa drammatica situazione legata alla sopravvivenza, e noi siamo su questo credibile. Le cose che ho detto le ho dette qui, lo dico anche al direttore di Panorama, può trovare traccia nelle mie dichiarazioni anche sui temi della lettera della BCE, quindi chiarissimo. Faccio un'ultima domanda prima che ci saluti: con personalità questo governo, diciamo così, di credibilità, con personalità di area o dirette di PDL e PD insieme, oppure assolutamente no, perché a quel punto diventa ancora più complicato votarlo in Parlamento come formula di transizione? Guardi, io non ho dubbi che nel momento nel quale Berlusconi esce di scena e il capo dello Stato, e accanto al capo dello Stato mi verrebbe da dire Banca d'Italia, diventano i garanti di un'operazione salvezza del paese, io non ho dubbi che questo governo debba essere composto da personalità politiche con competenza tecnica, in alcuni casi anche da personalità tecniche, ma deve essere un governo con forte base politica. C'è la voglia di assumersi questa, lo dico perché anche i costi politici delle cose che ho appena detto sono molto complessi, esatto, e si possono fare soltanto condividendoli. C'è la volontà da parte della maggioranza oggi di giocare una partita nell'interesse del paese, o c'è soltanto il tema salvezza personale di Berlusconi? Perché se è solo questo, come stiamo vedendo in queste settimane, il paese va a sbattere, la maggioranza va a sbattere, la Lega sta crollando su questa logica, e allora a quel punto elezioni, si va alle elezioni, noi proporremo l'unità delle opposizioni per andare al voto. Io ringrazio l'onorevole Letta, io penso che anche la partita delle garanzie delle aziende del Presidente del Consiglio e l'exit personale per Berlusconi si tratta con iniziative politiche, non con la resistenza nella cortile della Prefettura di Milano nell'aprile del 1945. So che sto facendo un paragone apposta urticante che irrita, ma per far capire che per così dire i guai in politica si affrontano con iniziative politiche, questo mi ha insegnato l'esperienza. Siamo in ritardissimo per la pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Sentiamo un pochino gli ascoltatori, cominciamo con Ugo da Roma, prego Ugo. buongiorno a tutti. Senta, io volevo dire che mi sono proprio scocciata di essere preso in giro da questa politica, perché le motivazioni adotte dal governo e dalla maggioranza per giustificare il voto di ieri sul rendiconto del bilancio dello Stato è una motivazione che offende l'intelligenza delle persone e la serietà del Parlamento, perché come si fa a dire che ci sono una trentina di parlamentari della maggioranza che non hanno votato questo provvedimento importantissimo previsto dalla Costituzione per disattenzione? Ma non le sembra che è una pezza peggiore del buco, mi chiedo? Sa, mica possono dire non siamo più d'accordo su niente. È chiaro che il problema tra Tremonti e Berlusconi c'è, è vero, è oggettivo, è grande come una casa, è avanti da tempo. Naturalmente per il ministro ammetterlo è un altro paio di maniche, ma è un fatto che è così. Ed è un fatto che oramai gli ex democristiani del PDL intorno a Scajola sentono sirene, per così dire, e vengono attirati, possono ammetterlo esplicitamente, no, a parte la politica, però l'essenziale è non negarlo e prendere iniziative politiche all'altezza, fossi io Presidente del Consiglio. Sentiamo come la pensa Franco dalla provincia di Brescia. Prego Franco. Buongiorno Giannino, io la stimo molto e la ringrazio di avermi dato questo spazio. Io soprattutto vorrei dire una cosa, io sono di destra e non condivido alcune cose che sta facendo ultimamente il governo e posso anche capire quello che sta facendo. La colpa di questo governo, se la vogliono dare, la diano a Fini, che è un figlio di buona donna, quello ha rovinato tutto e sta rovinando l'Italia facendo il furbo e sta facendo anche la falsità di una nazione, la sta rovinando, guardi, veramente ha rovinato tutto. Poi le dirò una cosa, ho sentito l'onorevole Letta parlare adesso, se dobbiamo andare in mano a questi fautori di favole sarebbe meglio che chiudiamo tutto e non facciamo più nessuna trasmissione, perché il signor Letta, l'onorevole Letta, lo sento tante volte in televisione, parla, ma è un favoliere veramente, perché questa sinistra ha solo un compito, quello di mandare a casa Berlusconi e poi vedremo che tipo di governo porteremo avanti, saremo alla distruzione totale, questa è una mia convinzione, io non so cosa ne pensa lei. Grazie Franco, penso che il centrodestra, siccome è vero che ha perso pezzi e si è spaccato, appunto per questo, se non vuole andare incontro ad anni di totale perdita di diritto di rappresentanza, se non minoritaria in silenzio, col cappello in mano, cosa che secondo me sarebbe un grave errore, deve capire che politicamente il tempo oramai è diventato pochissimo e prendere iniziativa all'altezza. Cioè il problema è che secondo me oggi Berlusconi ha bisogno vicino a sé di persone che dica: Silvio, guardiamo in faccia la realtà. La realtà è una realtà in cui se ne stiamo fermi e muti e continuiamo a dire che non c'è problema, che la colpa è degli altri, sarà sempre peggio per te, per la tua impresa, per la nostra politica, per la nostra rappresentanza, per il futuro. Questa è la mia impressione. Mi limito a dire che criticare è facile, poi fare diverso. Andrea da Pescara, Andrea. Buongiorno dottor Giannino, ascolti, io la ringrazio per lo spazio e ho chiamato soltanto per dire una cosa. Allora, io sono un rappresentante stipendiato, tra virgolette, per modo di dire. Mia moglie è una dipendente presso una finanziaria, siamo entrambi ampiamente ricattati dai nostri datori di lavoro, nel senso che quello che percepiamo non è lo stipendio reale che dovremmo percepire. Cioè, a fronte di tutto questo, non è che a noi comuni mortali ci può interessare più di tanto sapere se la colpa è di Fini o di Tremonti che rimane sulla porta. Cioè, qui queste persone hanno perso il contatto con il mondo reale. Se ci penso mi viene da piangere, perché ho anche un bambino di 7 mesi e non sappiamo adesso, a 34 anni, io non so che cosa farò domani mattina. Come tirerò a campare domani mattina? Quindi c'è, e non sono l'unico, perché facendo il rappresentante giro, parlo con le persone e le assicuro che di ragazzi della mia età sposati in questa situazione ce ne sono una miriade. Andrea, lo sappiamo e ci battiamo sempre per ricordare che il bilancio dell'equità intergenerazionale è uno dei punti che la politica dovrebbe guardare, anche se naturalmente a votare sono quelli di oggi, i cittadini di oggi, ma il problema è che gli oneri sono poi su quelli di domani, e a furia di non guardare questa cosa abbiamo un paese di spaccato in due per il mercato del lavoro, per le pensioni eccetera eccetera, è tutto sempre più così. Ci ha raggiunto Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera. Anche ad Antonio Polito chiedo: esiste una via concreta, al di là del rimpallo della responsabilità, secondo te per prendere in mano una soluzione di transizione o di uscita dallo stallo, o bisogna assistere al peggioramento settimana dopo settimana, episodio dopo episodio, sempre più grave, dello stallo, senza che si riesca a immaginare uno spazio di iniziativa né nel centrodestra per indurre Berlusconi a prendere atto di una maggioranza che oramai inizia a essere divisa, sfarinata, si fa del male da sola, né da parte di Quirinale, perché ovviamente non può, fino a che c'è una maggioranza che poi ogni volta che ce la conta regge, assumere alcuna iniziativa. Qual è la tua impressione? La mia impressione è che lo stallo è destinato a durare, e diciamo la cosa più logica da fare sarebbe quella di dichiarare chiusa la legislatura e di darsi un tempo ragionevole per andare alle elezioni, tanto ormai siamo in autunno, quindi è chiaro che non si vota prima della prossima primavera, un po' quella che viene definita come la soluzione spagnola, no? Io mi faccio la parte, si rivota e si ricomincia da capo, perché secondo me ipotesi per altri governi diversi da quello attuale non ci sono più, ma sono cose che non esistono, perché il centrodestra non è in condizioni oggi, il PDL o la Lega, di impegnarsi in un'operazione del genere, dall'altra, tra l'altro senza Berlusconi dovrebbe essere, dall'altra parte Di Pietro e Vendola mai e poi mai la sosterrebbero, il PD ha molti dubbi di dover essere lui a togliere le castagne dal fuoco con tutte le manovre economiche e i sacrifici che verranno richiesti, quindi le alternative sono due: o questo spettacolo, francamente, come dicono molti ascoltatori, effettivamente un po' deprimente, diciamo così, di una fine regime bloccata nelle picche personali, anche negli scontri, oppure una rigenerazione nel solo modo che le democrazie conoscono per rigenerarsi, cioè col voto. Il voto, questa come esito, dice Antonio Polito, non c'è una, in realtà oramai una praticabilità, sia pur minima, di una soluzione di transizione. Ora traffico, poi facciamo un rapidissimo giro finale di opinioni, ricominciando da Barbera, poi il direttore di Panorama e con Antonio Polito. 9 in punto, la versione di Oscar. Barbera, secondo lei, se dovessimo guardare ai danni incorporabili o ai danni evitabili all'economia italiana, al reddito italiano e alla crescita potenziale di questo paese per come oggi, meglio la via di elezioni a breve o meglio comunque una soluzione di transizione con la responsabilità del poi Parlamento di dire no e andare di male in peggio? È una risposta difficile, devo dire, non ho una risposta netta. Si dice che i governi tecnici sono governi politicamente deboli, però è altrettanto vero che, diciamo, nel corso, la storia degli ultimi 15 anni ci dice che solo i governi tecnici, o comunque che si avvicinavano molto ad essere dei governi tecnici, sono stati in grado di fare le riforme delle pensioni di cui ha bisogno il paese. Il governo Amato lo ha fatto nel 92 e il governo Dini lo ha fatto nel 95, sono le due più importanti riforme delle pensioni fatte nel corso degli ultimi 15 anni. Dall'altra si potrebbe dire che solo dando immediate certezze ai mercati possiamo essere sicuri di poter navigare nella tempesta senza problemi. Il punto qual è? Se si dovesse decidere di andare alle elezioni, bisognerebbe avere chiaro qual è lo scenario dopo le elezioni. Se ci fosse un chiaro vincitore, è evidente che con questa legge elettorale andare a elezioni è pericoloso per gli esiti che potrebbe avere, perché non è obiettivamente un buon Parlamento quello che è uscito con questa legge elettorale. Quindi forse, se dovessi scegliere, potrei dire meglio un governo di transizione che magari porta il Paese, che fa una nuova legge elettorale, porta il Paese a nuove elezioni fra qualche mese, piuttosto che non annunciare elezioni senza magari nel frattempo cambiare la legge elettorale. Ma anche perché con la legge elettorale attuale significa comunque l'ipotesi elevata di un Senato in cui non scatta il premio di maggioranza nessuno per le due formazioni, e a quel punto però si è obbligati ad assumere una prospettiva di riforma elettorale e costituzionale. Obbligati, ecco, questa sarebbe l'unica novità, quindi non saremmo nella condizione di dare risposte efficaci e immediate ai mercati. Ma io continuo a sognare una specie di dittatore del centrodestra che riesca a fare in una settimana queste quattro cose. Mulè, sono matto? Non sei matto, ed è quello che personalmente auspico, che cioè Berlusconi prenda il pallino definitivamente in mano, faccia piazza pulita delle ansie, faccia piazza pulita delle paure, e che decida di tornare a essere Silvio Berlusconi che è stato in tanti anni, anche perché in prospettiva, anche lì, guardando non un giorno sì a convenienza i dati della borsa, ci dicono anche che l'asta dei titoli di Stato ieri è andata più che bene, la richiesta è stata doppia, il rendimento è sceso al 3,57, quindi come dire, non è che poi alla fine questa crisi noi la stiamo gestendo peggio di altri, la stiamo gestendo con le difficoltà che hanno altri. Ci vuole uno scatto d'orgoglio ed deve essere uno scatto di orgoglio politico, perché se ancora una volta la politica fa un passo indietro e accetta un governo tecnico nel momento in cui viene accusata di essere soltanto una politica magnona, significa autoseppellirsi, autocondannarsi a un ruolo veramente di tipo, come dire, minore rispetto a quello nobile che dovrebbe avere. Che la politica faccia uno scatto d'orgoglio, decida di decidere in maniera impopolare, anche in maniera impopolare, in maniera che scontenterà qualcuno. Pazienza, ci sarà una patrimoniale, ci sarà un intervento, purché sia la politica torni a fare la politica. Rapidissimo, Antonio Polito, perché secondo te Berlusconi perde questa, negli ultimi mesi sempre più, la sensibilità di dover fare lui questo scatto d'orgoglio, altrimenti è comunque morto? Che gli è successo secondo te? Non è più in grado, ragazzi, le storie finiscono, le vicende, le ere politiche sterminano, gli uomini si logorano, la cosa che ha messo in piedi, che il PDL si reggeva e si regge esclusivamente sulla sua forza d'attuazione personale. E il personale politico che lo circonda non è di primo piano, non è di prima qualità, e l'ha scelto forse per altre ragioni. E temo che su queste parole di Polito, sul tempo che logora tutti, e che è una perla di saggezza, perché è drammaticamente vero, noi dobbiamo chiudere. E come vedete, non abbiamo risolto il problema, però. Lo stallo è un'illusione di forza, e la debolezza per maggioranza, governo Berlusconi e per il paese, e di lì il prezzo pagato per maggioranza, governo Berlusconi e paese sarà sempre più grave se accettiamo questa soluzione come via d'uscita. Grazie a Mulè, grazie a Barbera, grazie a Polito e grazie anche a Enrico Letta. Appuntamento domani in linea al Giornale Radio. Radio 24, la passione si sente. Yeah.